Le note di Firewoman con la formazione dei Cult. Un saluto a Lorenzo, a Luigi, a Isidoro, mi contattano tramite mail. Ancora un saluto a Glammy e al fan club Velvet Gold Mine di David Bowie. Ancora un saluto a Dani da Genova. Grazie della vostra partecipazione più che mai attiva in questa giornata. E arriviamo anche al primo appuntamento di quest'oggi con lo spazio dedicato ai concerti. Mi chiedevano quando arriveranno i Twisted Sister. Saranno in questo festival che si chiama Rock of Ages, 13 settembre, al Palasharp di Milano, insieme agli Extreme, Gotthard e sicuramente altre band che si aggiungeranno. La Rock FM All Star Band con l'ultimo concerto ufficiale, il sabato 24 maggio, Area Jens di Pontedera, provincia di Pisa. Motor Psycho saranno nella giornata odierna al Viper di Firenze, il 24 al Velvet di Rimini, il 25 maggio all'Alcatraz di Milano, venerdì 23 maggio al Palasharp di Milano, After Hours, 23 di maggio al Jamba Live di Rapallo, provincia di Genova, Yobo, Ricochet dal vivo, a seguire DJ set di Edo Rossi. Queensryche, 7 di giugno all'Alcatraz di Milano, Negramaro con The Fratellis, The Hoosiers, The Fashion and Think, sabato 31 maggio, Stadio San Siro di Milano. Nick Cave and the Bad Seeds, 28 di maggio Alcatraz di Milano, 30 maggio Villa Solari a Sesto Fiorentino, provincia di Firenze. 31 di maggio Travis Blues Band dal vivo a Paderno Dugnano, provincia di Milano, all'Anfiteatro Parco Lago Nord. Sempre la Travis Blues Band sarà di scena presso il comune di San Donato Milanese il 25 di maggio. Napalm Death, Suffocation, Warbringer saranno il 23 maggio al New Age Club di Roncade Treviso e il 24 al Rock Planet di Pinarella di Cervia, provincia di Ravenna. Bad Religion, unica data italiana, 16 giugno Rolling Stone di Milano. Glenn Hughes, 26 maggio Teatro Fanin di Bologna, 27 maggio Music Drome di Milano. Una Supersonic Night che si terrà all'Emlight di Milano sabato 24 maggio, praticamente un tributo agli Oasis con i Morning Sun, i Supernova, The Casual e She Loves. Tributo questa volta ai Rush, sempre sabato 24 maggio al fronte del porto di Genova, effettuato dagli XYZ. Tributo invece ai Rolling Stones per i Donkeys Forever, che terranno questo tributo a Milano al Dixieland il giorno 30 di maggio. E arriviamo anche all'ultima segnalazione. In questo periodo ci sono state e ci saranno diverse cliniche con Steve Lukather, che ha appena concluso, grande chitarrista dei Toto. Ci saranno queste due cliniche vicino a noi, una a Milano e l'altra a Genova, per Marco Balducci, grandissimo chitarrista italo-americano che vive a New York. Sarà in Italia il 30 di maggio presso Lucky Music in serata alle ore 21, proprio qua a Milano. Il giorno seguente, il 31 di maggio alle 3:30 del pomeriggio, sarà a Genova, quindi per gli amici di Genova, presso il negozio che si chiama Storti Strumenti Musicali, ok, in quel di Genova. Quindi Marco Balducci dal vivo con queste clinic dove tutti possono partecipare, chiedere, vedere, imparare, eccetera. Tutto questo sponsorizzato dalla Ibanez, che mi permetto di ringraziare ufficialmente per averci fatto arrivare in radio diversi strumenti che serviranno, sono già serviti e serviranno per la prossima settimana per amici che verranno a trovarci e a suonare qua nei nostri studi. Il prossimo appuntamento con Tour de Force 14:35 insieme a Max De Rio. I went out for a ride and I never went back. altro artista che arriverà a suonare nello stadio di Milano, San Siro, ma questo è già tutto esaurito. Del resto i biglietti in queste occasioni, soprattutto per lui, se ne vanno in un men che non si dica. Bruce Springsteen con le note di Angry Heart. Vediamo un po' che ora abbiamo fatto, 10 e 44 minuti primi, ancora il tempo di leggere un paio di segnalazioni. L'M64, per noi che saremo sotto la Radio 31 ci saranno gli altoparlanti o dovremo portare le radioline? Mi sa che portatevi le radioline oppure con i telefonini ascoltate tramite la cuffia eccetera. Un po' difficile che noi possiamo fornire altoparlanti eccetera, anche per non creare caos e disturbare, quindi vedi la mia risposta all'amico squalo che dice: se portiamo gli strumenti e improvvisiamo un live in strada, pensi che ci arrestano? Se non quello, sicuramente non ve lo fanno fare, quindi la cosa migliore è veramente venire con calma, estrema tranquillità. Saremo noi che ogni mezz'ora, ogni ora scenderemo, anche perché noi saremo tutti qua, quindi a rotazione scenderemo con in strada con voi a salutarvi, ad abbracciarvi, a ringraziarvi soprattutto, ok? Detto questo, vado ancora ad un'altra mail di un'amica, Natasha, che ci segnala, visto che ho appena terminato il Tour de Force, ma mi è arrivato ora questa mail, che in questo weekend sulle colline di Firenze, a l'impruneta località Nizzano, spero di leggere giusto, ci sarà una festa molto rock, completamente gratuita. Questa sera suoneranno Room and Pier, Onda Pasce e Occhetto Maledetto. Questo per la serata odierna. Domani sera invece Karmic Relation, Tuzio Evanesi e Syncopat. Ma come cavolo si chiamano questi gruppi? Syncopaticity o roba del genere, insomma. E sabato 24 Fundrise, Biodevice Cult e Alpha Tech. Ripeto, la località è all'Impruneta, località Nizzano, sulle colline di Firenze. Grazie, un saluto e un bacione a Natasha. ultimi secondi di One of These Days, Pink Floyd, 10 minuti esatti alle ore 11. Dario mi chiede qual è il titolo del brano che utilizzo come sottofondo. Il titolo non me lo ricordo nemmeno io, però è sicuramente una delle canzoni di questo tastierista che ha pubblicato un sacco di album negli anni 70, chiamato Brian Auger. Quindi trovi un best of e sicuramente dal best of ritroverai anche il brano che utilizzo, anzi più di una canzone che utilizzo come sottofondo. Vi lascio per qualche attimo a questa bellissima, intensa You Can Always Get What You Want, Rolling Stones. I saw her today at the reception, a glass of wine in her hand. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, you might find. Jimmy, a man, did he look pretty ill? I said to him, you can't always get what you want. No, you can't always get what you want. You can't Disneyland After Dark con le note di questa Sleeping My Day Away. Rebel man, rebel man, rebel man, rebel man, rebel man.